brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi trasmissione per soli maschi, per quanto riguarda la necessità di una profonda e serena autocoscienza, trasmissione aperta, anzi con obbligo di partecipazione anche al pubblico femminile, come specchio efficiente in cui noi ci rispecchiamo. Oggi parliamo del corpo dei maschi. Parlare della mascolinità è un tema molto dibattuto, le derive recentissime della mascolinità in luoghi, tempi, persone, stati sociali, circostanze insospettabili fa pensare che oggi l'uomo stia riscrivendo la propria virilità. La virilità è una essenza di una serie di componenti date da un atteggiamento nei confronti dell'esistenza, da un senso di responsabilità, da un fattore biologico genetico, da una presenza esteriore, ma anche da un corpo. Noi siamo fatti di corpo. Ci dimentichiamo molto spesso di essere fatti di corpo, perché il corpo, in quanto centrale elemento di attenzione dal mondo della pubblicità, della necessità di appoggiare a questo corpo dei prodotti, di appoggiare a questo corpo uno status, di rendere questo corpo invulnerabile, eterno. Eternizziamo però quale fase di questo corpo? Di solito uno comincia a pensare all'eternità corporea, che altro non è che una mummificazione, quando già il corpo ormai non rappresenta più qualcosa di accettabile secondo canoni estetici perlomeno correnti. Beh, maschietti, oggi parliamo del vostro corpo, del nostro corpo, visto che chi parla davanti a questo microfono è fatto anche di corpo. Di questo corpo sentite soltanto quella che è l'emissione sonora, che però sono una serie di contrazioni, di movimenti, di emissioni che passano attraverso qualcosa che è composto di materiale organico. Il corpo degli uomini oggi è in profonda, radicale e viscerale riscrittura. Il corpo degli uomini oggi finalmente può essere un luogo su cui si possano aprire libere discussioni. Cos'era il corpo degli uomini? Ma io ricordo, il corpo di mio nonno era qualcosa di sacro, intoccabile, inviolabile, inesistente. Mia nonna ha tagliato le unghie a mio nonno fino a che ancora era in vita, quindi c'era una sorta di osannante e ancillare adorazione per il corpo del maschio. Oggi il corpo del maschio è qualcosa che merita dignità, merita osservanza, oppure è qualcosa che non ha assolutamente bisogno di essere celebrata, perché l'uomo è altrove, l'uomo è dovunque si celebri il potere maschile, a volte anche lontano dal proprio corpo. L'alimentazione, dove sapete che è una cosa primis, ve l'ho detto, sino a questa palestra non ci venite, forza con st'addome, quando voi sfoggiate sta tartaruga, pure quando andate al mare, ma andavate fatta sta tartaruga, ci avete una rana adesso, no, la tartaruga, dai, perché è una cosa importantissima per le donne, anche i glutei, perché noi come guardiamo un bel sedere di una donna, anche la donna guarda un bel sedere di un uomo, che proprio, che le donne devono proprio guardare, vedi questo che culo che c'ha. Davide rappresenta la radicalizzazione di ciò che è l'idolatria del corpo maschile, ma che non è più qualcosa che appartiene a una fattispecie virile, è una costruzione fallace, ha perso la sua organicità, ha perso il suo punto di riferimento, è il tenutario di una delle più famose palestre, famose perché su YouTube Davide mette una serie di video in cui mostra le caratteristiche mirabolanti del suo corpo. Lui parla del suo corpo come di un oggetto in continuo cammino di perfezione che quasi non appartenesse a lui, parla delle sue conquiste, la sua possibilità di muovere ogni muscolo, è una macchina perfetta, è un frutto di bricolage sulla propria carne che porta alla creazione di un altro feticcio, di un altro simulacro di virilità, che è il corpo appunto perfettamente scolpito del culturista. Oh, se guarda bene si sta bene, che dopo devi fare entrata e tutte le donne, vedi che fisico per quell'uomo, allora tu ti senti al centro dell'attenzione, che vedi quella vena che si vede, tutto bello depilato, perché la depilazione è la base principale. Questa è una forma casual, col cappello e tante volte con gli occhiali, è tutta scena, diciamo, no? Io faccio questo movimento e lei mi butta l'occhio sul tricipite, come ti guarda con che schifo d'uomo sto. Ma a me questo mi gratifica. E lei mi ributta l'occhio un'altra volta al braccio. E io godo come un matto a vedere lui che rosica, rosica, scandalo d'uomo. Chi parla a questo microfono probabilmente è in quella categoria definita Davide scandalo d'uomo. Scandalo d'uomo in questo caso è colui che legittimamente si accompagna a una ragazza che in realtà, almeno dal punto di vista del re dei culturisti, non occhi che per il suo tricipite, per il suo bicipite, per la sua tartaruga. Insomma, questa costruzione fantastica di un corpo saettante e pieno di caratteristiche pulsanti, di forza, di materia anabolizzante, comunque con una grande fisicità manifesta, dovrebbe calamitare tutte le attenzioni, ma in realtà le donne molte volte sono molto magnanime nel considerare il corpo dell'uomo. Per le donne molte volte l'uomo non è necessario che abbia un corpo, deve avere soltanto l'essenziale. Noi uomini ci camuffiamo, ci nascondiamo dietro una serie di fantasmatiche doti date dalla nostra profondità, dalla bellezza della nostra testa, dalla profondità del nostro pensiero, dall'esperienza, da come sappiamo parlare, da come sappiamo atteggiarci, soprattutto da ciò che rappresentiamo nella società. Facile questo, ma noi siamo anche un corpo. 800 24 00 24, parlate del corpo dei vostri maschi. E senza otto dorsale, sottuali di pipistrello, ma non lo vedi. Alla persona in cui alleno, non voglio vedervi mangiare male. I miei veri amici sono queste, sono le mani, perché questi che mi danno la forza di sopravvivere, di campare e di lavorare. La palestra è una cosa di vita, è il sangue che mi scorre nelle vene. Senza palestra è come che sto senza una bella donna. Professoressa Elisabetta Ruspini, buona giornata. Elisabetta Ruspini dovrebbe sentirmi, eccomi qua. Sì, sento, sono in metro però adesso, sto scendendo, una fermata. E dobbiamo aspettare che lei si sistemi meglio, preferisce? Guardi, un secondo perché sto arrivando alla stazione. Sì, intanto la presento, mentre lei sta uscendo alla stazione. Elisabetta Ruspini è docente di sociologia e metodologia della ricerca sociale alla Bicocca di Milano, è curatrice di un volume, Uomini e Corpi, edizione Franco Angeli. In questo momento sta facendo un importante training all'interno della metropolitana, proprio perché è uno dei luoghi in cui più facilmente ci si rende conto che gli esseri umani sono dotati di corpo. Sentiamo intanto Giacomo, un ascoltatore. Giacomo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Mentre si sistema la professoressa, vediamo il suo punto di vista sul corpo dell'uomo contemporaneo. Io credo questo, credo che la mascolinità nell'uomo contemporaneo la si stia perdendo più che cambiando. Beh, questa è una gran fortuna. Ma io ho una visione tradizionale della vita e dell'essere umano, quindi... E quindi deve essere contento che gli altri perdano virilità e mascolinità, avrà meno concorrenti. Ma io concorrente non ne ho più perché ho già avuto due mogli, ho già delle bambine, quindi io sono fuori mercato, chiamiamomi. Ecco, questo mi interessa però. Terminata la capacità procreativa e relazionale, sì, perché il corpo deve essere messo da parte? Visto che oggi voglio parlare di corpo, non di relazioni, non di addentellati sociali o psicologici o mentali, solo di corpo. Il suo corpo può essere buttato in una sorta di limbo pretombale perché lei ormai ha avuto due mogli e tre figli? No, io guardo la prospettiva proprio da un'altra visuale, ovvero avendo due bambine io come figli, ogni tanto quando vedo i maschi cerco di capire quali compagni o quali mariti potranno avere in futuro le mie figlie. Ah, quindi lei decide in anticipo i corpi che dovranno essere dati in dotazione alle sue figlie? Diciamo di no, però il corpo fa parlare anche da dimostrazione dell'interno delle persone, di quello che uno pensa, di quello che ha di visione del mondo. Ma perché è necessario che un corpo sia sempre associato a un interno? Il corpo in sé non ha una sua dignità di esistenza senza ci sia un'interiorità che lo muove? Ma io credo che l'esteriorità è il manifesto della propria interiorità, come possono essere, che so, i monaci si curano l'esterno in un certo modo perché devono mandare un messaggio. Beh, i monaci in realtà lo flagellano il corpo, lo mortificano perché è la gabbia che impedisce allo spirito di librarsi libero verso l'assoluto, quindi è una negazione del corpo il monachesimo, perlomeno nelle forme che banalmente noi conosciamo, anche in realtà non è poi esattamente così. Sentiamo un attimo Barbara Mapelli è una delle autrici dei saggi che hanno composto il libro che ho appena annunciato. In particolare ha scritto assieme a Marina Piazza Sguardi di donne su corpi maschili. Barbara Mapelli è docente di pedagogia delle differenze di genere alla Bicocca di Milano. Professoressa Mapelli, buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei ha avuto modo di ascoltare questa nostra prima carrellata di impressioni. Nel suo saggio, nel libro, è interessante perché uno capisce la percezione che hanno le donne del corpo maschile, come ne parlano, quanto ne parlano, ma mi ha colpito una cosa in particolare: quanto sia importante ancora nella percezione di un corpo maschile per una donna l'imprinting del corpo paterno. Sì, senz'altro. Il corpo paterno è stata una delle prime aree su cui abbiamo discusso con le donne del gruppo con cui abbiamo fatto questo lavoro, perché il corpo paterno è la prima percezione, insomma, di un corpo diverso dal proprio corpo di bambina. Si vede un corpo grande, un corpo villoso, ecco, una delle intervistate parla di corpo villoso, un'altra parla, la prima volta che ho visto un pisello, ho capito cos'era un pisello, usa proprio la parola così che si usava da bambine. E si tratta di un corpo che dà la sensazione della protezione, ecco, proprio perché è grande, proprio perché è diverso. Sì, però queste povere ragazze, una volta buttate allo sbaraglio nell'universo maschile, trovano molto difficilmente punti di riferimento rispetto a quel modello. E per questo è molto frequente che molte volte le donne vadano a cercare non proprio la perfezione dei corpi o la freschezza delle carni, ma qualcosa che ricordi questo senso di protezione che si ha in generazioni non proprio di età freschissima. Ma infatti, quando abbiamo parlato con queste donne, ecco, volevo aprire una piccola parentesi: le donne con cui abbiamo fatto questi gruppi sono donne giovani, ma non giovanissime. Abbiamo scelto la generazione tra i 30 e i 40 anni perché appunto avessero anche un'esperienza di vita, un passaggio attraverso le diverse percezioni dei corpi maschili. Ecco, direi, generalizzando un po', che le risposte parlano di una bellezza maschile che senz'altro è un veicolo per il primo sguardo, per il piacere, però questa corporeità è sempre legata ad altri aspetti che non sono legati all'aspetto fisico, che fanno piacere un uomo, ecco, con un continuo, direi, andirivieni tra esterno e interno. Sentivo il discorso che faceva prima l'ascoltatore, che è piuttosto interessante, per cui c'è un padre che comincia a guardare i corpi degli altri uomini cominciando a pensare quale sarà il più adatto per le proprie figlie. Beh, questo non credo che lo faccia con questo spirito l'ascoltatore, si incuriosisce rispetto agli uomini che verranno dopo di lui, insomma, quelli che le figlie toccheranno, ameranno, da cui saranno attratti. Mi sembra anche abbastanza naturale, insomma, credo che avvenga anche il contrario se siamo dei figli maschi. Comunque una gran fortuna, noi maschi possiamo anche permetterci di avere gravi deficienze dal punto di vista dello splendore corporeo, perché abbiamo sempre questa grande arma di possibilità di compensare con qualità interiori, etiche, di possibilità di sentirsi punti di riferimento. Questo, da un certo punto di vista, mette il corpo quasi in un rango secondario rispetto a tutto l'insieme della mascolinità. No, guardi, direi proprio che nelle risposte delle nostre intervistate non è in secondo piano. La bellezza del corpo, comunque l'attrazione, perché poi la bellezza ovviamente è un dato molto soggettivo, l'attrazione che si può provare per un corpo maschile è sempre messa comunque, ma su un piano di parità, con altre qualità, che non sono facili tra l'altro, perché non sono necessariamente, anzi, sono tutt'altro rispetto alle qualità tradizionali del maschile, per cui si parla di uomini che sanno ascoltare, uomini che riescono ad avere passione non solo per il proprio lavoro, ma per altri ambiti di vita. C'è addirittura una intervistata che usa una parola nuova inventata da lei, caldezza, no? che è l'insieme tra calore e dolcezza. A noi è piaciuta molto perché effettivamente delinea una modalità di essere uomo e di entrare in relazione con un uomo che è abbastanza una novità. Sentiamo un attimo, sentiamo un attimo Filippo. Filippo, buongiorno, lei è un ballerino. Sì, buongiorno, beh, ormai ex ballerino. Comunque ho ballato da quando avevo 17-18 anni fino ai 24-25, quando poi con la mia compagna abbiamo deciso di avere dei figli e quindi cessando l'attività. Voi rappresentate il modello più irraggiungibile per noi uomini banali dal punto di vista della perfezione corporea, perché Davide è uno sberleffo di perfezione maschile, ci possiamo ridere sopra, ma su un ballerino c'è poco da ridere, è un corpo perfetto. Sì, secondo me è proprio questo che bisognerebbe anche rivalutare, cioè esistono dei canoni di bellezza che vengono un po' trasfigurati, che vengono interiorizzati dalla società, però nella danza tutto questo è assolutamente indispensabile. Un ciccionazzo che salta su un teatro non è guardabile, ecco. Ma noi uomini ci salviamo dicendo, sì, i ballerini sono belli, ma sono tutti gay, quindi non sono dei concorrenti. In realtà non è così, esattamente. No, io ho tre figlie femmine, posso dire che nella mia vita ho avuto professionale, ho incontrato tantissimi colleghi etero e homo, naturalmente. Sicuramente c'è una attenzione, una sensibilità forse più simile a quella delle donne a certe tematiche, proprio perché viviamo un ambiente artistico un po' particolare, però questo non cambia assolutamente, secondo me, quelle che possono essere le proprie inclinazioni sessuali. Quindi per voi il corpo è una macchina da guerra, è una macchina da lavoro, quindi la cura per il vostro corpo non è semplicemente una semplice banale artefazione estetica. Il culturista in realtà non si fa scrupolo di anabolizzarsi, di gonfiarsi, di passare ore davanti alle macchine per avere questo giocarello estetico. Per voi deve essere una macchina funzionale, non soltanto estetica. Assolutamente, guardi, non si dovrebbe mai fumare, si è molto attenti all'alimentazione, si conduce una vita abbastanza anche ascetica, se vogliamo, perché quando uno deve fare 4-5 ore di lezione al giorno, più le prove, più gli spettacoli, lei capisce che 8-9 ore in palestra non sono esattamente quello che significhi una vita che ti permette sfrenatezza e altre cose. Insomma, ecco, il ballerino, quando come lei appende le scarpette al chiodo, continua ad avere un'attenzione particolare al proprio corpo, oppure anche lei ormai ha abbandonato l'idea che le serva un corpo? Io sono 1,78 m per 72 kg, faccio le mie 10-12 ore di lezioni settimanali come insegnante, naturalmente, e continuo a curare quello che è l'aspetto fisico e diciamo anche alimentare della mia esistenza, della mia vita. La ringrazio con grande invidia, ma anche con grande ammirazione. Ah, così Simone le ha detto che mi interesso di culturismo. Mi ha detto che vai sempre in palestra a Milano e che sei, come dire, inesperta di bodybuilding. Visto che stensione? Complimenti. Senti un po', ma qual è il muscolo che ti piace di più? Veramente? Lo vuoi vede? No, la prego. Forse è meglio aspettare un attimo, no? Il deltoide. Che ne dici del deltoide? Ah, il deltoide. Guarda un po'. Il muscolo è bello quando è gonfio. Deve essere bello tosto. Non me lo ca? No. Sto in tensione. Guardami. 800 24 00 24. Devo, come faccio di solito, sollecitare l'attenzione del pubblico femminile. Probabilmente c'è ritegno, titubanza o grande attenzione a quello che noi diciamo nel parlare del corpo maschile. Il corpo maschile è qualcosa di cui si può fare veramente a meno, perlomeno nell'accezione, nella percezione che abbiamo noi maschi, gratificati dal fatto di poter essere attenzionati, per usare un termine noto alle cronache, anche per altre qualità che non sono soltanto quelle corporee, quindi possiamo trascurarlo o possiamo ipervalutarlo. Ma quando noi diamo una grande attenzione al nostro corpo, entriamo nel rango delle macchiette. Avete sentito il culturista, l'esibizionista, l'uomo affaticato nel crearsi una sorta di rivestimento alla propria mascolinità da Big Jim. In realtà non è un uomo, è un uomo con cui le donne sì hanno commercio, hanno ammirazione, hanno attenzione, come ci hanno già detto alcune delle nostre ospiti, ne parlano molto, ma in realtà l'uomo che veramente le turba è quello fatto da un quacervo di possibilità, di diapason, di sensibilità, di amorevolezza, che può anche fare a meno di avere un corpo splendidamente costituito secondo canoni perlomeno comunemente oggettivamente condivisi. Abbiamo recuperato la professoressa Elisabetta Ruspini. Professoressa, adesso può parlare un attimo con noi? Certo. Ecco, lei ha curato questo libro Uomini e Corpi, ricordo, edito da Franco Angeli. Noi stiamo faticosamente risalendo una china di luoghi comuni, di stereotipi, come se la possibilità di parlare del corpo maschile sia o in negativo, gli uomini non hanno bisogno di avere un corpo splendido perché in fondo noi donne vogliamo rivedere il padre che ci dava sicurezza e tranquillità, vogliamo rivedere l'uomo che ci dà tenerezza, carezze, dolcezza, o il paradosso del culturista, del maniaco del proprio corpo. Esiste una forma mediata ma plausibile di rivestimento della mascolinità che non sia né grottesca né totalmente negativa del fatto che si possa avere un bel corpo? Ma direi assolutamente sì. Io mi è piaciuto molto curare questo libro perché credo che molti saggi fanno vedere molto bene che appunto non è più il rapporto tra mascolinità e il corpo sta veramente cambiando. Chiaramente è un passaggio che cambia attraverso le generazioni, nel senso che le nuove generazioni hanno un rapporto con il corpo che secondo me è molto diverso da quello che descriveva anche lei, un rapporto, come dire, inesistente. Sappiamo, insomma, molti colleghi e colleghe ci hanno detto molto bene che uno dei pilastri fondanti della mascolinità tradizionale è proprio diciamo la distanza dal proprio corpo, che o viene diciamo messo in un angolo, viene occultato oppure viene utilizzato addirittura in maniera aggressiva. Ecco, adesso invece mi sembra, e appunto questo libro un po' lo testimonia, il rapporto sta cambiando, nel senso che finalmente possiamo parlare di fisicità maschile, finalmente gli uomini si rendono conto che il proprio corpo ha delle debolezze, che il proprio corpo può essere curato, può essere abbellito. Gli uomini utilizzano sempre più chirurgia estetica, magari in maniera silente, ma la usano, e non soltanto per farsi il trapianto di capelli, ma per farsi anche altre cose, come dire, che qua non nomino, ma che sono state tradizionalmente associate ad esempio all'essere femminile. No, ne abbiamo parlato spesso, la finta tartaruga sintetica messa sotto pelle, ad esempio, allungamenti innominabili, si fa di tutto. Questo, allungamenti innominabili sono interessanti, ma anche la liposuzione. Sì, ma quella ma perché il corpo dell'uomo nella percezione poi si limita soltanto a quell'accessorio non trascurabile, ma che in fondo non è il corpo, è un essere a sé stante e separato dal corpo maschile? Questo è un lungo discorso, è un discorso, come dire, di purtroppo congiunzione storica tra una parte del corpo maschile e tutto il resto, purtroppo. Invece adesso io credo che, diciamo, che il corpo maschile, ma anche la sessualità femminile, si pensa che venga attivata solo in presenza di, come dire, appunto di un pene, se posso utilizzare questa parola, sì, durante questa trasmissione. Esiste. Ecco, e che diciamo che il corpo maschile ha pari dignità e diritto di esistenza, ecco, che nominare una mano, un naso, un'orecchia, almeno per me. E che il corpo maschile sia in particolare governato da questa parte, ma sappiamo che, diciamo, che gli interventi che vengono fatti, e non soltanto quello dell'allungamento del pene, c'è anche questo, ma ce ne sono anche, ripeto, moltissimi altri, ci fanno vedere che anche le mascolinità si stanno riappropriando pian piano, insomma, magari in maniera tentennante, magari con dei ripensamenti, ma sappiamo, insomma, che la tradizione storica è molto lunga e molto pesante, anche di una parte di sé che appunto veniva occultata, se non, come dicevamo prima, per, come dire, la parte sessuale. Però c'è un dato dalla cocente attualità che probabilmente merita un aggiornamento rispetto al suo libro. Improvvisamente sembra che si è scoperto il segreto di Pulcinella, che alcuni uomini diventano delle semidonne per permettere ad altri uomini di fare tutto in casa senza bisogno delle donne. Ecco, questo è un tema che ha sfiorato nel suo libro. Certo. Sì, certo, io ne ho parlato un po' nel mio saggio, perché mi occupo di queste cose. Questa cosa è molto interessante perché diciamo che vari, non solo sociologi ma anche molti psicologi, credo concordino nel dire che il rapporto che un uomo che si dichiara eterosessuale, sappiamo che l'eterosessualità è stato un altro dei pilastri della mascolinità tradizionale, che una persona che cerca una compagnia, che cerca un accompagnamento con ad esempio una persona trans M2F, diciamo che in questo modo, attraverso questo rapporto, scende a patti con una cosa che è stata rigettata per secoli, che è l'omosessualità maschile, nel senso che un rapporto cazzo di un uomo, ripeto. Quindi una zona di passaggio, una sfumata eliminare territorio in cui uno può far finta che ancora gli piacciono le donne. Beh, diciamo che può permettersi un rapporto passivo che non sia con un uomo, a questo punto è scongiurato il pericolo dell'omosessualità. Allora, un altro uomo basta che abbia le tette. Grazie professoressa. Marina, buongiorno. Buongiorno. Parliamo di corpi maschili. Sì, mi ha incuriosito il fatto che sia stato utilizzato come dire il corpo delle donne, quel cortometraggio. Scusi, ma io ho un ritorno terribile. Adesso cerchiamo di toglierlo. Lei parli finga di non ascoltare, però parli. Va bene. Dicevo, il corpo delle donne, che è quel documentario che è stato trasmesso via web, sì, è stato motivo di riflessione anche con altre amiche. E una delle cose che... Però vorrei parlare del corpo degli uomini oggi, che è un po' più difficile. Il fatto che il corpo degli uomini, il corpo del maschio, non è esposto nella stessa identica maniera o similare attraverso i media tradizionali. Parlo di televisione, non parlo di giornali, non parlo di cinema o radio. Però l'esposizione che viene fatta dal corpo femminile è sostanzialmente diversa da quella maschile. Però stanno recuperando terreno. Se lei guarda un giornale femminile, molte pubblicità ormai c'è l'esposizione di questi corpi maschili, che rispetto ai canoni di mascolinità tradizionali hanno ormai rimasto ben poco, ma sono corpi di maschi comunque. Sì, ma è una cosa recente, abbastanza, oserei dire quasi subdola, no? La comunicazione che viene fatta attraverso il corpo femminile non è la stessa che viene fatta attraverso il corpo maschile. Molto spesso gli uomini in televisione compaiono sempre molto abbottonati, molto coperti. Marina, perché non parliamo sempre delle riproduzioni dei corpi e non parliamo dei corpi, dell'esperienza reale, concreta di incontrare, annusare, toccare, sfiorare, desiderare corpi di maschi? Sì, è vero, ne possiamo parlare per settimane del corpo nella pubblicità, nei media, ma voi donne come parlate dei corpi degli uomini fra di voi? Riveli questo segreto, perché... Tutto sommato, credo che non sia un segreto che un bel gluteo lo guardi volentieri, che una mano curata. Però è una novità questa, guardi, volentieri. Fino a 20 anni fa mi avessero detto che le donne piacciono al sedere degli uomini, non l'avrei mai immaginato. Una cosa di questi ultimi anni, questo va da sé, però è interessante. No, è un po' più data, signor Nicoletti, sì. Forse non se ne vengo da una provincia oscura e meditabonda, non lo immagino. L'ho preso da pochi, da 20 anni, da quando mi sono inurbato, ho cominciato a sentire le amiche dicendo: guarda quello che bel sedere. Dico: ma scusa, perché ti interessa il sedere? Ma è bello, ho capito. Ma signor Nicoletti, da che cosa è che parte la pulsione o il richiamo? Dall'aspetto estetico. Poi certo, si media comunque con l'intelligenza, la... come che l'ha chiamata prima la dottoressa, la caltezza, no? Che è molto simpatico, però il primo richiamo è fisico, non c'è nulla da fare, se ci vogliamo nascondere dietro un dito lo possiamo fare, però ripeto, no, noi donne, a me fa piacere perché guardiamo gli uomini estremamente sotto il profilo fisico, che poi siamo tolleranti se la tartaruga si è rovesciata, è perché di necessità si fa virtù. Allora, a questo punto però mi pongo un'altra domanda. Abbiamo al telefono Stefano Ciccone. Professore, buongiorno. Buongiorno. Lavora all'Università Tor Vergata di Roma, è presidente dell'Associazione Nazionale Maschile Plurale. Nel suo saggio di questo libro mette in evidenza un fatto divertente: la miseria del corpo maschile. Lei prende come esempio un angolo di riferimento di mascolinità a me molto caro, che è il B-movie italiano, in cui si vedono uomini scellerati, schifosi, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, che però sono sempre in relazione con donne bellissime. E anch'io da ragazzo mi chiedevo, quando guardavo questi film, ma come mai uomini così flaccidi, schifosi, panzoni, lerci, possono ambire che donne di quella perfezione fisica possono avere qualche pulsione per loro? Come colmiamo questa incongruenza? Appunto, quei film parlavano di due cose abbastanza importanti. Primo, lo sguardo maschile sul corpo delle donne, ed era uno sguardo appunto un po'... Dal buco della chiave, dal sempre. Buco della serratura, uno sguardo povero, misero, quindi diciamo quello che lei dà come degrado di quel corpo di quegli uomini era il degrado del loro sguardo. C'era un'umanità maschile bassa che guardava delle donne bellissime. Il problema è che non c'era mai lo sguardo delle donne, non a caso oggi in questa trasmissione stiamo scoprendo questo, cioè... che esiste uno sguardo e un desiderio femminile, e questa cosa ci può permettere di reinventare anche l'esperienza che facciamo dei corpi degli uomini. Oddio, l'abbiamo sempre saputo, abbiamo fatto finta che non contasse il nostro aspetto esteriore, ma contasse altre cose. Ma ce lo siamo detto con un modo molto interessante, quello che diceva anche Barbara Mapelli, no? Abbiamo pensato che per noi fosse importante la capacità di proteggere le donne o la nostra autorevolezza, le nostre proprietà che andavano oltre il corpo, e abbiamo sempre pensato che la nostra realizzazione fosse a prescindere dal corpo, il corpo o come macchina, cioè il corpo come strumento per andare in guerra o il corpo palestrato, oppure il corpo accessorio, cioè il corpo poco valutato, trascurato per la mente. Queste due cose sembrano contraddittorie, ma dicono la stessa cosa, cioè dicono la mia identità, la mia soggettività è qualcosa che prescinde dal mio corpo, il mio corpo è una macchina, uno strumento che io guido, e questo è una cosa che dentro la nostra sessualità poi ci porta anche a pensare che l'esperienza della sessualità per gli uomini sia qualcosa un po' discisso da sé. Lei prima... Allora, senta, facciamo una cosa, visto che è interessante e non voglio metterle fretta, posso dare un attimo la linea alle informazioni per il traffico e recuperiamo questo tema che mi interessa molto. È interessante capire quanto un uomo si renda conto che in realtà il proprio corpo è importante e si renda conto quanto per lui è importante che una donna lo gratifichi dal punto di vista corporeo. Le vere donne che riescono a far breccia nella sensibilità, nel cuore, nella valagloria degli uomini, sono quelli che dicono quanto sei bello. Al di là del fatto che mentano, sono i complimenti che più fanno piacere. Stiamo definendo la possibilità che un uomo ha di avere un corpo, di avere un corpo desiderabile, di avere un corpo che può perfezionare, di essere considerato per il proprio corpo e non sempre per ciò che ha rappresentato nella vita, per quanto sia saggio, per quanto sia capace di dare e ricevere tenerezza. Silvio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io sono il tipico ciccionazzo, come ha coniato l'ascoltatore di prima. Ascolta, io faccio il pasticcere e cioccolatiere. Se non fosse ciccione sarebbe una pessima pubblicità per i suoi prodotti. Bravissimo, bravissimo. Io interpreto il classico physique du rôle. Io nella mia giacca bianca col mio cappello alto in testa che porto orgogliosamente ho il fascino del professionista. Certamente qualche chilo di più ci sono che in media. Io sono disegnato da Botero, no? E... Sì, però dobbiamo anche sfatare un principio. Ecco, persone come lei, non le dico come sono io che faccio altrettanto schifo anche se su altri parametri, dovrebbero chiudersi in una sorta di cella e negarsi al mondo, ma in realtà è lei, siamo persone che comunque hanno dei corpi che sanno essere a volte apprezzabili, a volte disprezzabili, in fondo quello che abbiamo lo mettiamo sul piatto anche noi, non è che ci dobbiamo vergognare perché non siamo in linea con i muscoli del signor Davide che abbiamo, di cui abbiamo parlato all'inizio. Io mi perdoni Nicoletti, io ho avuto modo di vedere che c'è un insieme, un collegamento tra quello che è il corpo e la mente, non sono due cose staccate, no? Io non mi sento assolutamente brutto, non mi sento neanche inadeguato nei confronti del ballerino. Io ballo benissimo, anche se sono 98 kg, non farò i campionati del mondo, ma con mia moglie, che anche lei diciamo si accompagna bene nella famiglia di Botero, e lo dico veramente con piacere, balliamo benissimo e viviamo in modo sereno, siamo sposati da 23 anni, ho due figlie botterine anche loro, che sono felici e serene, quindi direi a questo. Certo, signore, quando fate una festa da ballo a casa vostra, spero che non abitiate a piani rialzati a questo punto. No, noi viviamo in una casa nostra, ma le dico... Io non mi sento assolutamente di condividere il fatto di definire quelli come me ciccionazzi, perché è una forma di assoluta, mi perdoni, mancanza di rispetto, no? Perché io mi sento bello non solo dentro, anche fuori. No, ma questa mattina, scusi, non la voglio interrompere, parliamo del bello fuori, il bello dentro oggi non ci interessa, facile. Ma c'è una correlazione tra le due cose, perché se io mi sentissi goffo nel mio corpo... Sarebbe un depresso. Sarei un depresso. Io invece un giorno al Salone del Gusto di Torino una ragazza anoressica mi sente parlare di cibo, io ne parlo con enfasi perché sono una buona forchetta. E vomita. Non mangio così a caso, mangio cose buone. E questa ragazza mi avvicina e mi dice: ma lei non è ancora stufo di parlare di mangiare grasso così com'è? Io l'ho guardata e gli ho detto: ma lei sta scherzando? Io sono un museo vivente dell'alimentazione. Mi sono nutrito delle cose più prelibate che Dio ha messo sulla terra. È un po' come se lei si lamentasse del Louvre che ha troppe opere. E quindi gli ho fatto notare che c'era un punto di vista diverso del bello o di quello che può essere comunamente accettato. Quindi, Silvio questa mattina ci dice che anche un corpo pingue ha le sue estimatrici, visto che parliamo di corpo maschile e non ci nascondiamo dietro un dito, anche un signore come Silvio che porta la sua carne addosso con gioia, anzi con orgoglio, perché è provocata da infiniti attimi di piacere, ha scritto sulla fronte e sulle pieghe della sua pancia che quel piacere può essere distribuito equamente e generosamente proprio da quella carne. Stefano da Torino. Buongiorno. Pronto? Sì, la sto ascoltando. Buongiorno. E niente, stavo ascoltando la vostra trasmissione appunto sulla fisicità esteriore, sulla bellezza del corpo. Lei com'è messo? Allora, io sono messo bene, sono 13 anni che vado in palestra e adesso ne ho 29. Ho iniziato che ne avevo 16, anzi 15. Sono diventato così a causa del fatto che quando ero più piccolino ero comunque ipotonico, per non usare termini offensivi, mettiamola così. E ero così sovrappeso ed ero comunque oggetto di scherno. Beh, allora ci dica una cosa, ma in piena sincerità. Sì? A lei capiterà di avere apprezzamenti in momenti molto particolari del suo corpo, ma esattamente come dice Davide, il culturismo all'inizio dice quell'avanzo d'uomo, quello schifo d'uomo, le donne le dicono: ah, finalmente trovo un uomo con le vere caratteristiche che ho sempre desiderato, o in realtà poi questa sua macchina perfetta vale fino a un certo punto? No, non sono d'accordo con quello che viene detto dal signor Davide, appunto. Trovo abbastanza in disaccordo questo punto di vista, perché non è sempre così. Ci sono donne, per esempio, che non apprezzano per niente un uomo palestrato, comunque molto definito, che ha una grande massa muscolare, cioè, insomma, da esporre, magari si sente anche a disagio. Guardi, io lo dico contro il mio interesse, io trovo che si ha una sorta di atteggiamento pudibondo e molto culturale le donne che dicono che non apprezzano un bel corpo. Penso un bel corpo piaccia a tutti. Sì, come a me piace, cioè, nel senso, io parlo da uomo, quando vedo una bella donna con un bel corpo, con un bel vestito, conta molto anche il portamento. Cioè, però conta molto anche il fatto che la sigla ci sta portando via questa mattina. Quello che potevamo dire sul corpo l'abbiamo detto, quello che non abbiamo detto immaginatevelo. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828-1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Radio 24. La passione si sente.